Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Farò la punta se arriverò ad essere candidabile, farò il regista in campo nella coalizione, se sarò fuori farò il Carletto Ancelotti o il Sacchi, farò l'allenatore. Questa è la metafora, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di Silvio Berlusconi, tornato in campo, quindi in tutti i sensi fa questa metafora calcistica in un momento in cui, insomma, diciamo, il calcio non è in un momento felice, lo dice queste cose a Porta a Porta nella puntata registrata di questa sera, parlando delle prossime elezioni politiche e in attesa di capire se sarà eleggibile o non eleggibile in base a quello che deciderà proprio in questi giorni la Corte di Strasburgo. Ma c'è un'altra notizia più grossa che lo riguarda in questa giornata di oggi, che è la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha revocato l'assegno milionario all'ex moglie Veronica Lario, in base a quella sentenza di qualche tempo fa che aveva riguardato l'ex ministro dell'economia Grilli. Ne parleremo con una notissima matrimonialista questa sera, anche per capire, insomma, per quanto riguarda le persone comuni, queste leggi valgono ugualmente, si fa da caso a caso, oppure diciamo rischiano anche molte, in particolare donne, di essere penalizzate. E poi ci occuperemo anche di questa apertura del Papa sul fine vita. È un'apertura reale, qualcuno addirittura dalla politica parla di parole rivoluzionarie, qualcuno dice no, non strumentalizziamo, insomma cercheremo di capire effettivamente come va interpretata questa considerazione del Papa. Molte notizie come sempre che vi racconterò fino alle 22, anche insieme agli ospiti che mi aiuteranno a approfondire i vari fatti. Per i vostri commenti, lo sapete, due modi di interagire qui con Effetto Notte: pagina Facebook del programma, che è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Prima di tutto, riassunto della giornata. Il Papa apre sul fine vita, è moralmente lecito, dice, sospendere le cure se non proporzionali, e i senatori a vita chiedono che si approvi la legge sul biotestamento. Il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Radio 24, dice resta il no all'eutanasia. Mafia, il boss Rina in fin di vita, il governo autorizza la visita dei figli. La disputa Berlusconi-Lario, revocato l'assegno mensile da 1,4 milioni all'ex moglie. Il centrosinistra e le alleanze, Fassino incontra Prodi a Bologna, Veltroni esorta a essere uniti sugli stessi valori, Renzi dice servono idee forti. Il G7 sulle pari opportunità, nessun paese ha ancora realizzato concretamente la parità tra i sessi, i governi approvano un documento che li impegna ad attuare e monitorare interventi per l'uguaglianza di genere. Lavoro illegittimi, licenziamenti di Almaviva, ora il reintegro per 153 lavoratori. Arte, Leonardo polverizza ogni record, Salvador Mundi battuto all'asta a 450 milioni di dollari. Quindi partiamo appunto da queste aperture sul tema del fine vita del Papa. Apre perché spiega è moralmente lecito, dice il Papa, rinunciare all'applicazione di mezzi terapeutici o sospenderli quando il loro impiego non corrisponde alla proporzionalità delle cure, e invoca un supplemento di saggezza, dice, perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale della persona. E intanto la legge di 5 articoli sul biotestamento, già approvata alla Camera, è ferma da tempo al Senato. Intanto su questo arriva l'appello dei senatori a vita, che dicono, dopo queste parole del Papa, la legge sia messa in agenda. E tra poco, come vi dicevo, cercheremo di capire effettivamente come vanno interpretate queste parole di Bergoglio. Mafia, l'altra grossa notizia, che il boss Totò Riina, dopo 2 interventi chirurgici, è in fin di vita e il governo ha autorizzato i figli a raggiungerlo al capezzale. È in un letto del reparto detenuti dell'ospedale di Parma, Totò Riina. Malato da tempo, è in coma farmacologico dopo 2 interventi chirurgici. Non c'è stato nessun miglioramento nelle ultime ore, tanto che ormai si parla di un boss in fin di vita. Riina compie proprio oggi 87 anni, arrestato nel gennaio del 93 dopo 24 anni di latitanza. Solo qualche mese fa è stato ancora definito dagli inquirenti il capo indiscusso di Cosa Nostra. Sta scontando 26 condanne all'ergastolo per decine di omicidi e stragi, tra cui gli attentati in cui persero la vita Falcone e Borsellino. Non ha mai avuto un cenno di pentimento. L'ultimo processo a suo carico è quello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia ed è ancora in corso. Nelle ultime settimane Riina è stato operato due volte. I medici da subito avevano avvertito che difficilmente avrebbe superato gli interventi, tanto che è stato deciso appunto il coma farmacologico. In quelle che ormai sembrano essere le ultime ore potranno stargli vicini però moglie e figli. Con parere positivo della Procura Nazionale Antimafia e dell'Amministrazione Penitenziaria, il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il permesso, sempre negato negli ultimi mesi. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la disputa Berlusconi-Lario, niente più assegno milionario per l'ex moglie. 45 milioni di euro. Questa è la somma che Veronica Lario dovrà restituire a Silvio Berlusconi. Per il futuro, la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto che nulla le debba essere più versato. Determinante nella valutazione dei giudici è stata la recente pronuncia della Cassazione, che ha drasticamente cambiato i criteri per la concessione dell'assegno di mantenimento. Conta il criterio dell'autosufficienza economica e non il tenore di vita goduto durante le nozze. E Veronica Lario è autosufficiente, avrebbe una liquidità per 16 milioni, oltre a gioielli e società immobiliari. I giudici stimano il patrimonio dell'ex First Lady in circa 300 milioni di euro. L'assegno di mantenimento mensile da 1,4 milioni era stato fissato dal Tribunale di Monza nel 2015. Veronica Lario aveva chiesto oltre 3 milioni, ma il tribunale aveva parametrato l'assegno mensile in base al patrimonio di Berlusconi. Il ricorso in Cassazione di Veronica Lario è quasi scontato. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questi però, dicevamo, sono dei super VIP, qui si parla veramente di cifre stratosferiche, però quando si tratta di persone comuni, di storie ordinarie, insomma, come devono funzionare le cose, come funzioneranno, ne parleremo con una famosa matrimonialista, vi dicevo. Intanto Berlusconi è protagonista non solo in questa vicenda, ma anche per quanto riguarda la pagina politica. Nella puntata registrata per questa sera di Porta a Porta dice: alle politiche io sarò in campo, lo avete sentito all'inizio, farò la punta se sarò candidabile, se no farò l'allenatore, e dice: Forza Italia avrà sia più seggi sia più voti, spero prima delle elezioni di presentare la squadra di governo con cui, dice Berlusconi, vinceremo con una forte maggioranza. Allora restiamo sulla politica, però col centrosinistra Piero Fassino getta ponti, cerca di fare il pontiere, il mediatore, cerca di sciogliere i nodi che dividono il centrosinistra. Oggi ha fatto tappa a Bologna per incontrare Prodi, il padre dell'Ulivo, condivide, che dice Fassino, condivide e apprezza l'iniziativa che sto perseguendo per realizzare una comune strategia del centrosinistra. Per Renzi però non servono tatticismi ma idee forti. Anche Veltroni si schiera per un centrosinistra unito, formato, dice, da persone che hanno valori e idee comuni. E poi ne parleremo, ancora politica adesso, perché sarà il 23 novembre l'incontro per l'avvio della trattativa dell'autonomia per la Regione Veneto, lo dice il sottosegretario Gianclaudio Bressa, ricordando che da parte del governo c'è la massima apertura e disponibilità. Bressa rileva che il solco del negoziato è dato dalle competenze a cui seguiranno le risorse necessarie al loro esercizio. E in Senato in mattinata è arrivato il via libera al decreto fiscale. Conti in miglioramento, hanno ribadito sia Gentiloni che Padoa. Lo sguardo è sempre all'Europa, ai vertici di Bruxelles che non mancano occasione per ricordare a Palazzo Chigi il rischio del peso del debito sulla tenuta dei conti pubblici. Dal governo è allora il premier Gentiloni a rivendicare l'importanza della stabilità ritrovata. È una stabilità di fondo che dipende dalla forza, dalla capacità del lavoro e del territorio italiano. La finanza pubblica sta migliorando e questo è un fatto. La confusione tra fatti e illazioni sta diventando insopportabile, commenta il ministro dell'economia Padoan. Si sta chiudendo una legislatura. È una legislatura che offre a quella che seguirà un quadro oggettivamente migliore in termini di crescita, in termini di finanza pubblica. Padoan interviene all'Assemblea degli Industriali di Salerno. Crescita e conti pubblici, anche nelle parole del presidente di Confindustria Boccia. Continuare a investire sulla crescita, cosa positiva, inversione di tendenza, alert e attenzione, abbiamo un grande debito pubblico e quindi questa è l'operazione verità che l'Europa ci chiede di fare. Via libera intanto da Palazzo Madama al decreto fiscale, il testo passa ora alla Camera, tra le novità la stretta sulle sigarette elettroniche che non potranno più essere vendute online. Si allungano i tempi per la manovra che sarà invece in aula il 27 novembre. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E voluto dal governo c'è una due giorni a Taormina del G7 sulle pari opportunità, voluta proprio dal governo italiano che presiede questo semestre. Hanno approvato i paesi presenti un documento che impegna i governi ad attuare e monitorare interventi per l'uguaglianza di genere. I sette paesi presenti, Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Germania, Giappone e c'era anche presente la commissaria europea Vera Jourova, sostengono l'esistenza di divari che devono essere ancora colmati e nessuno ha ancora raggiunto la parità di genere de facto. Si prevedono fra l'altro azioni per la crescita dell'occupazione femminile, la presenza in politica e sui luoghi decisionali, il contrasto poi alla violenza contro le donne occupa nel documento uno spazio strategico per lo sviluppo dei paesi. E spostiamoci su Ostia, dove oggi c'è stato il corteo antimafia nel pomeriggio. Ad Ostia istituzioni e società civile tornano in piazza a tre giorni dal ballottaggio per l'elezione del presidente del decimo municipio commissariato per infiltrazioni mafiose. Un migliaio le persone presenti alla manifestazione organizzata dal sindacato dei giornalisti, la federazione della stampa e dall'associazione Libera per dire no alla mafia e a difesa della libertà di informazione. Un'iniziativa indetta dopo l'aggressione da parte di Roberto Spada, esponente dell'omonimo clan, alla truppa del programma Rai Nemo, alla quale dal palco ha espresso la sua solidarietà il presidente della Federazione della Stampa, Giulietti. Quella testata è stata una testata contro tutti noi e diffidate di chi vi dice che sarà mai una testata, perché era un tentativo di dire qua comando io e con la mia testata io vi impedisco di illuminare questa realtà. Non banalizziamo i gesti e le parole dell'odio. Arrestato dopo l'aggressione, Roberto Spada nel frattempo è stato trasferito da Regina Coeli al carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, in provincia di Udine. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il tema del lavoro, illegittimi licenziamenti di Almaviva, il colosso dei call center, lo ha stabilito l'ordinanza del giudice del lavoro di Roma, che condanna la società a reintegrare gli stessi lavoratori e a corrispondere loro a titolo di risarcimento danni un'indennità comprensiva degli interessi pari agli stipendi maturati dal giorno del licenziamento fino alla reintegra. È stato discriminato, dice questa sentenza, chi non accettò il taglio del salario. Si tratta di 153 lavoratori che avevano fatto ricorso, mentre per il 15 dicembre è attesa un'altra decisione che riguarda una novantina di persone. Per chiudere parliamo di arte, con quest'asta da 450 milioni di dollari per il Salvador Mundi di Leonardo, che è il più caro della storia. A Christie's, 400 million dollars is the bid and the piece is... Il dipinto Salvator Mundi di Leonardo da Vinci è stato venduto in asta da Christie's a New York per 400 milioni di dollari, che sono diventati 450,3 milioni con tasse e diritti di vendita. È così l'opera d'arte più costosa della storia. Finora il record di vendita di un'opera d'arte apparteneva ad Interchange di De Kooning, venduto nel settembre del 2015 per 300 milioni di dollari. Il dipinto del genio toscano, che ha polverizzato le 60 ultime cene di Andy Warhol, venduto per 56 milioni di dollari senza i diritti d'asta, ha una storia controversa. L'attribuzione di Salvator Mundi non è infatti univoca, in quanto alcuni vi vedono l'inconfondibile mano di Leonardo, mentre altri ritengono che l'opera sia stata realizzata da un suo discepolo, Giovanni Boltraffio. La sessione di vendita da mozzafiato da Christie's è durata 19 minuti. È stato un grande momento per noi e credo per tutto il mercato dell'arte, ha commentato Cerutti, il direttore generale di Christie's, per la quale il dipinto sarebbe l'ultimo di Leonardo ancora in mani private. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ne parleremo con un noto critico d'arte anche di questo, se effettivamente può essere attribuito a Leonardo e se insomma queste cifre, questa è una cifra assoluta da record, nessuno l'ha superato finora, sono giustificabili o no. Magari qualcuno può pensare effettivamente sono un po' esagerate. Comunque, adesso ci prendiamo questa piccola pausa per aggiornare chi si sta muovendo, chi sta viaggiando su strade e autostrade, poi cominciamo con i temi, magari proprio cercando di chiarire le parole del Papa su questa apertura per quanto riguarda il tema del fine vita. 349-238-6666, il numero per messaggio WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. Antonio per esempio dice: quello che ha ricordato il Papa oggi lo aveva scritto già nel 1980 la Congregazione per la Dottrina della Fede nel documento Iura et Bona ed è contenuto nel Catechismo della Chiesa Cattolica. A chi giova strumentalizzare le parole del Papa? Tra poco cercheremo di fare chiarezza. Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. 60 minuti ricchi ricchi di notizie, di fatti, di approfondimenti, di interviste tutte le sere. Roberta Giordano con voi dalle 21 alle 22 per raccontarvi tutto ciò che c'è da sapere di quello che è successo durante la giornata. Allora, tra poco torniamo sulla notizia di cui abbiamo in parte parlato, quella dell'apertura del Papa sul fine vita. Vedo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Qualcuno critica aspramente quello che ha detto Berlusconi dalle anticipazioni da porta a porta, non il fatto che sarà in politica come allenatore o come attaccante eccetera, ma perché ha detto anche fra le altre cose di essere contrario al biotestamento, la legge sul biotestamento che giace per il momento in Senato. Vedo Gilles, Cristiano, Francesco, insomma, che scrivono cose piuttosto critiche. Adesso però ne parleremo tra pochi istanti. Vi ricordo come sempre, se qualcuno accende un pochino in ritardo, quali sono per la giornata i fatti più importanti. Il Papa apre appunto sul fine vita, le cure si possono sospendere, invoca un supplemento di saggezza, intanto i senatori a vita chiedono che si affronti la legge. Padoan che assicura che i conti dell'Italia migliorano, ma c'è una confusione insopportabile, dice in effetti arrivano prima dei dati, poi degli altri, poi sappiamo le sollecitazioni dell'Unione Europea. Centrosinistra e alleanze, Fassino incontra Prodi a Bologna, Veltroni chiede di stare uniti sugli stessi valori, Renzi dice che servono delle idee forti. Veronica Lario perde l'assegno da 1,4 milioni mensili e anche di questo poi ci occuperemo. Illegittimi i licenziamenti di Almaviva, il colosso del call center, ora ci vuole il reintegro per 153 lavoratori. E poi il boss dei boss, Torina, è in fin di vita, in coma da giorni. Orlando firma il permesso per i figli. Quindi parliamo di queste parole del Papa sul tema del fine vita. Bergoglio, in un messaggio alla Pontificia Accademia della Vita, ha detto: oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale della persona. E spiega che è moralmente lecito rinunciare all'applicazione di mezzi terapeutici o sospenderli quando il loro impiego non corrisponde alla proporzionalità delle cure, e invoca questo supplemento di saggezza. Immediate sono state le reazioni politiche, dato che da tempo giace al Senato, dopo essere passato alla Camera, questo disegno di legge sul biotestamento. C'è l'appello dei senatori a vita, Mario Monti, Carlo Rubbia, Renzo Piano, Elena Cattaneo, a mettere in agenda questa benedetta legge. C'è chi nel centrosinistra ha parlato di parole del Papa come rivoluzionarie, risolutive, chi invece, per esempio, dal centrodestra, come Gasparri, ha detto: non strumentalizziamo le parole del Papa. Quindi chiediamo l'interpretazione allora a un vaticanista come Carlo Marroni del Sole 24 Ore. Carlo, buonasera. Buonasera Roberta. Spesso quando ci sono queste aperture su vari temi, non so, magari è la stessa informazione, noi stessi o la politica, che prendono un concetto e enfatizzano, ma dove sta la verità? Cioè, quanto è ampia questa apertura del Papa su questo tema? Allora, apertura nel senso che il Papa ne parla, e questa è già una cosa importante, perché quando si parla di questi temi l'ha fatto in maniera molto ampia, non è stata, come dire, un passaggio in un discorso, in un'omelia, cioè questa è una cosa molto... Da dei contorni molto definiti e precisi e forti a questa materia, la materia dell'accanimento terapeutico e diciamo così, tutto il tema del fine vita. Due o tre cose. Primo, non è una novità nel senso del concetto, era già espresso nel Catechismo della Chiesa Cattolica del 1980. Infatti, lo ricordava un ascoltatore anche lì. Lo ricordava un ascoltatore, ma c'è il passaggio che dice: non si vuole provocare la morte, ma si accetta di non poterla impedire. Questa è una frase della Chiesa che dice da molti anni. Lo diceva anche Pio XII, il Pio XII considerato un papa ultraconservatore, eccetera, disse: non c'è obbligo di impiegare sempre tutti i mezzi terapeutici, è lecito astenersene, perché la Chiesa ha sempre riconosciuto questa, sempre da un po' di tempo, insomma, da quando esistono le medicine, diciamo così, che possono salvare la vita o prolungarla per un po', che, diciamo così, l'accanimento. Del resto lo stesso Cardinale Martini, ce lo ricorderanno molti radioascoltatori tuoi che sono di alto livello, cosa disse il Cardinale Martini qualche anno fa, suscitando un grosso dibattito, lui stesso affetto da Parkinson, che disse: rinuncio alle... Quindi è vero che diciamo così, sono messaggi forti che arrivano in momenti importanti. È importante in Italia, ma il Papa guarda tutto il mondo, e questo tema per esempio anche negli Stati Uniti è molto sentito, in Francia è molto sentito, anche se lì ci sono delle legislazioni, in Italia non ci sono. Non va strumentalizzato, sono d'accordo, non so chi l'ha detto, se uno di destra o di sinistra, però anch'io sono d'accordo nel non strumentalizzare, però allo stesso tempo inquadra un tema che forse per la nostra legislazione nazionale è utile, perché mette al centro un tema che è ancora il Far West, dal famoso caso di Luana Englaro del 2009, ce ne sono stati molti altri, Welby. Quindi casi ultimamente DJ Fabo, no? Che è andato in esattamente queste sono ancora altre, diciamo, ci sono molti, diciamo, esempi, no? di come il fine vita casi eclatanti che hanno, diciamo così, acceso i fari. Sicuramente la Chiesa è abbastanza aperta su questo fronte. Naturalmente qui non si parla di eutanasia. Il Papa dice, ma lo dico anche io o chiunque altro, ai malati, soprattutto quando uno è un familiare, bisogna starci vicini. Questo non significa staccare o fare o dare o in medicina, cioè la vicinanza è qualcosa che attiene ai rapporti e quindi stiamo vicini, questo però, quindi anche alcuni hanno detto tutto sommato l'eutanasia, ecco no, questo non c'è nella Chiesa, poi se uno è a favore se la vede con se stesso, ma questo non lo dice la Chiesa. Per quanto riguarda, se vi posso dire solamente un passaggio, certo, sulla legge italiana, c'è stato questo appello dei senatori a vita, sì, tra l'altro non di Napolitano, ho visto, non è tra i firmatari. No, non so erano, perché. Sì, infatti erano Monti, Rubbia, Elena Cattaneo e Renzo Piano, sembra. Renzo Piano, sì, no, ma non so se c'è una scelta oppure semplicemente perché l'hanno deciso tra di loro. Comunque sia, perché ci sono altri senatori a vita. E diciamo che è ferma questa questione, perché è ovvio che si va sotto elezioni, questi sono come classici temi elettorali dove vengono brutalizzati questi argomenti, no? Questi non si fanno mai sotto elezioni, perché diventa come Berlusconi ha parlato, quell'altro parlerà e tutti lo strumentalizzeranno. La Chiesa Cattolica Italiana, questo però va detto, quindi la CEI, che è quella che diciamo interloquisce con la politica italiana, non è molto favorevole a questo impianto attuale e che ritiene che ci sia una scarsissima, diciamo così, ruolo del medico e solamente sia la famiglia, quindi c'è il medico deve avere un ruolo maggiore. Quindi loro avevano, la Chiesa, la CEI aveva un po' criticato questo impianto attuale. Non so come passerà o se passerà. Ecco. Grazie intanto Carlo Marroni, vedremo appunto. Grazie quando te, decideranno di affrontarlo. Ciao Carlo. Ora invece cambiamo proprio tema, anche se anche questo è un tema soprattutto politico, non solo etico, no? Riguarda la vita di tutti ed è il Parlamento che a questo punto, come dicevamo, deve decidere di mettere in agenda questa legge sul biotestamento, poi si vedrà con le modifiche, con gli aggiustamenti, però comunque una legge serve. Parliamo di politica in un altro senso, intanto saluto Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, cara Barbara, ciao. Buonasera. In primissimo piano la Mission Impossible, o Possible, non si capisce bene ancora, di Piero Fassino del PD, che è stato incaricato da Renzi di fare da pontiere per creare questa larga alleanza che ha prospettato Renzi nella direzione del PD di lunedì scorso, dicendo che vorrebbe questa alleanza che va dai centristi di Alfano sino a Sinistra Italiana. E Fassino, ex sindaco di Torino, ha appunto questo difficile compito di ricucire i rapporti soprattutto nel centro-sinistra, perché mi sembra già che i centristi siano favorevoli, bisogna, diciamo, la difficoltà è proprio ricucire i rapporti con MDP, con Sinistra Italiana, eccetera. Ci puoi dire tu, Barbara, a che punto sei? Io me lo figuro affannato che corre da una parte e dall'altra, sembra che però stia recuperando Prodi, per esempio, padre nobile, no? del PD, padre dell'Ulivo, è vero? Sì, allora, le vesti di Fassino nel ruolo di Tom Cruise... non vorrei che dimagrisse di più di quello che è, a forza di... Sì, si dovrebbe anche leggermente abbassare, ma comunque... È effettivamente una mission impossible, nel senso che finora le risposte che ha ricevuto da D'Alema, per esempio, sono state di chiusura totale. È evidente che sia la legge sullo ius soli che il testamento biologico sono due temi su cui MDP già si è espressa favorevolmente e quindi potrebbero aiutare questa ipotesi di riconciliazione o quantomeno di alleanza tattica. Sì. Giustamente tu facevi riferimento a Prodi perché Prodi, insomma, la porta non l'ha chiusa, la tenda l'ha rimessa davanti alla porta del PD e quindi si attende adesso che possa esserci una parola da Prodi, come sì, come c'è stato da Veltroni, insomma i padri nobili del PD. Bersani dice un po' padre nobile mi sento anch'io, e io ho una posizione diversa, rivendica la sua posizione diversa, appunto di non alleanza col Partito Democratico. Al momento le chance di arrivare a un'alleanza sembrano davvero pochissime, anche perché, ripeto, come ho già detto in altre occasioni, il dato personale, il logoramento dei rapporti personali, secondo me è, come dire, è il mattone più pesante per questa alleanza. Troppo fresca è la scissione, troppo fresche sono state le parole, le polemiche, insomma ci sono stati molti motivi di discrezio, insomma è difficile ricuscire così presto. Senti, a questo proposito sentiamo Fratogliani di Sinistra Italiana. Hanno governato per 4 anni con la destra, hanno fatto riforme che hanno impoverito il paese, aumentato la precarietà, la disoccupazione, hanno ridotto i diritti del lavoro, demolito la sanità, la scuola, la ricerca, ci hanno chiamato gufi, rosiconi, partitini del 3%, oggi ci chiedono un accordo e lo fanno rivendicando la bontà di quelle riforme, dal Jobs Act alla buona scuola allo sblocca Italia. La verità è che il tempo è scaduto e che non c'è nessuna condizione perché oggi la sinistra di questo paese possa accordarsi con questo Partito Democratico. La sinistra torni a fare il suo mestiere, il contrario di quello che il Partito Democratico e la sua maggioranza hanno fatto in questi anni. Quindi mi pare molto drastico Fratogliani di Sinistra Italiana, no? Sì. Sì, va sottolineato il fatto che appunto è Sinistra Italiana, ex SEL, quindi sono sempre stati all'opposizione di questo e dei precedenti governi. Però nell'idea di Renzi farebbero parte di questa larga coalizione, no? Cioè Fassino sì, sta tentando anche loro stanno lavorando, cioè Bersani, D'Alema, Fratogliani stanno lavorando per una loro coalizione. La larga coalizione io non penso che Renzi pensi a Fratogliani. Pensa a recuperare forse MDP e sottolineo forse perché probabilmente Renzi punta a recuperare anzitutto quella parte del movimento progressista di Pisapia, insomma. Campo progressista e poi anche sì. I Verdi, Italia dei Valori, Radicali. Sentiamo invece Gentiloni, attuale Presidente del Consiglio, naturalmente alto esponente del PD. Se pensiamo alla bellezza che abbiamo attorno ma anche ai pericoli che ci circondano, bene, li dobbiamo affrontare insieme. Una sinistra consapevole, una sinistra competente, una sinistra capace di prendersi cura della società. E quando ci serve, chiede il Libro, ci serve ora. Forse, cara Barbara, si è anche perso un pochino il senso di cosa sia effettivamente di sinistra, no? Con tutte queste accuse anche a Renzi di aver a volte anche fatto una politica di destra, di aver fatto delle riforme di centrodestra, delle cose che doveva fare Berlusconi poi le ha fatte lui. Forse c'è un po' di confusione, forse, insomma, sicuramente una grossa crisi di identità, no? E non solo in Italia. Questa crisi di identità, secondo me, nasce molto prima di Renzi, insomma, no? Sì, non ci dimentichiamo che il Partito Democratico aveva appoggiato il governo Monti e la politica restrittiva che quel governo varò per evitare appunto il default italiano, ma anche in precedenza, cioè i governi di centro-sinistra. Qui il punto è una sinistra di governo se è praticabile. Fino adesso, anche qui bisogna sottolineare il fatto che gli italiani, cioè gli elettori, finora non hanno mai premiato la sinistra-sinistra, che è rimasta sempre largamente minoritaria, non solo l'esclusione di Rifondazione Comunista dal Parlamento, proprio in rottura con Prodi, con quel governo fu punita dagli elettori di sinistra lasciandoli fuori dal Parlamento. Adesso sentire personaggi come D'Alema e come lo stesso Bersani che hanno sempre avuto una caratterizzazione riformista e di sinistra di governo, insomma un po' sorprende, cioè pensare ecco a D'Alema e Fratogliani insieme sorprende, devo dire. Però appunto ripeto, qui le questioni sono anche di carattere personale e quando di mezzo ci sono rivalità o comunque questioni appunto di carattere personale diventa molto difficile poi fare un salto di qualità politica. Penso per quanto riguarda la domanda che tu mi ponevi, cioè che cos'è la sinistra, penso che questo è un discorso che va generalizzato a livello anche internazionale, perché vediamo che i partiti di sinistra di governo sono in crisi ovunque, cioè pensiamo al Partito Socialista Francese che ormai è ridotto al lumicino, pensiamo anche alla sconfitta clamorosa subita dalla sinistra in Germania. C'è certo l'effetto della Gran Bretagna invece, dove abbiamo visto che il partito dei lavoratori, il partito laburista inglese, ha ottenuto un forte riconoscimento da parte degli elettori. Quindi c'è un interrogativo sulla sinistra. Io devo dire che da un punto di vista di diritti, per esempio, indubbiamente i governi, gli ultimi governi che si sono succeduti, se anche approvassero lo Ius Soli e il testamento biologico, hanno fatto moltissimo più di quanto hanno fatto tutti i precedenti governi di centro-sinistra. Barbara, adesso abbiamo veramente 32 secondi. Vuoi fare una battuta su Berlusconi? Vogliamo sentire brevemente l'incipit di questa puntata? Farò la punta se arriverò ad essere candidabile, farò il regista in campo nella coalizione, se sarò fuori farò il Carletto Ancelotti o il Sacchi, farò l'allenatore. 32 secondi, Barbara? Stasera, ha detto porta a porta, puntata registrata che andrà in onda stasera. La ruota è girata, si è vista anche dalla sentenza di divorzio di cui parleremo tra poco. Che è vinta da Berlusconi. Adesso si erge a saggio e come a padre nobile della Repubblica, continua a interpretare questa parte. Certamente questo lo aiuta a recuperare quel voto moderato che inizialmente era rimasto a casa oppure si era diretto verso Renzi e che adesso potrebbe, per il voto utile, potrebbe decidere di scegliere Berlusconi per evitare appunto il governo con i 5 Stelle. Chiaro, grazie Barbara Fiammeri, a presto. Ciao cara Barbara, già portata via dalla metropolitana, credo. Adesso abbiamo la nostra pausa e poi riprendiamo con i temi, a partire proprio da questa sentenza sulla disputa Berlusconi-Lario. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Visto che abbiamo parlato di questa metafora del calcio, Laura scrive: anche se non andremo ai mondiali con la nazionale maschile, ci andremo grazie alla nazionale femminile. Effettivamente c'è la nazionale femminile che parteciperà ai mondiali di calcio. A tra poco. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, e anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Allora riprendiamo ad approfondire i temi con gli ospiti. Abbiamo detto che le notizie principali sono il Papa che apre sul fine vita e dice di sospendere le cure se non sono proporzionali. Poi, per quanto riguarda il boss Rina, è in fin di vita dopo due interventi chirurgici, il governo autorizza le visite dei figli. E poi la disputa Berlusconi-Lario, di cui parleremo tra pochissimo, il centro-sinistra e le alleanze con la difficile missione di pontiere di Fassino. E per quanto riguarda l'arte, Leonardo polverizza ogni record a Salvador Mundi, il quadro battuto all'asta a 450 milioni di dollari. Quindi soffermiamoci su questa sentenza che riguarda il divorzio Berlusconi-Lario, con la quale la Corte d'Appello di Milano ha revocato l'assegno di mantenimento del leader di Forza Italia all'ex moglie, il cui nome vero all'anagrafe è Miriam Bartolini. In pratica la Corte d'Appello, che appunto è intervenuta in questa disputa tra Berlusconi e l'ex moglie Veronica Lario, ha stabilito di applicare anche in questo caso il precedente caso che riguardava l'ex ministro dell'Economia Vittorio Grilli, che si è visto riconoscere dalla Cassazione il diritto a non dover mantenere la moglie in quanto economicamente autonoma, scardinando così il principio del mantenimento dello stesso tenore di vita, no? Di cui abbiamo parlato qualche tempo fa e ha fatto molto discutere. In base a quanto stabilito, quindi, Veronica Lario dovrà restituire il denaro ottenuto a partire dal febbraio 2014. Si tratta circa di 60 milioni, che poi diventano 43 milioni effettivi per, diciamo, dei conti sospesi tra loro. Lei potrà ricorrere in Cassazione, però è difficile che la Cassazione ritorni sui suoi passi. Diciamo, il concetto centrale di questa questa sentenza che Veronica Lario aveva tutte le capacità per mantenersi dopo il divorzio da Berlusconi. Di questo voglio parlare con una famosissima, bisogno di presentazioni, matrimonialista, che è Anna Maria Bernardini De Pace. Ciao Anna Maria, buonasera. Buonasera a tutti, ciao Roberta. Allora, vorrei un tuo sintetico commento su questa di sentenza, ma quello che veramente mi interessa, e credo interessa ascoltatrici e ascoltatori, è: ma per le donne comuni deve valere lo stesso questa cosa? Nel senso, qui si parla di cifre astronomiche, di super VIP, certamente Veronica Lario sarà in grado di mantenersi da sola, ma quando in una coppia comune, se di comune accordo decidono quando si sposano una donna e un uomo, che magari la donna, come è stato per anni, no, nella tradizione, resta a casa, occuparsi della famiglia, della casa, dei figli, eccetera, poi non è che può essere mollata a se stessa così a 40, 50 anni, 60 anni, no, e dire, beh, t'arrangi perché io ho cambiato idea. Allora, prima di tutto, secondo me non ne dovrà restituire 46, perché lei, quei soldi che ha ricevuto, ha pagato le tasse e Berlusconi, pagandole, si è detratto. Per cui intanto dovrà restituirne circa la metà. Ma non è tanto questo il problema, in quanto lei comunque un patrimonio ce l'ha, lei può vivere serenamente. Come dicevi tu, tutte le donne che invece si sposano, stanno magari 20 anni con un marito che poi le tradisce e se ne va, e loro per 20 anni hanno fatto l'infermiera, la cuoca, la cordarupiera, l'insegnante di sostegno, qualsiasi cosa per i figli e per il marito, magari anche l'amministratore delegato dell'azienda famiglia. Non è giusto che solo perché magari hanno un piccolo immobile, perché questo è il concetto, se hai una proprietà immobiliare, se hai capacità lavorativa, una casa, ma non è detto che abbia una casa tua, magari hai una casa di 50 metri che affitti. Insomma, se sei in questa situazione non hai diritto all'assegno di mantenimento. Io trovo che questo sia profondamente ingiusto, perché quando si sono sposate non valeva questo principio, perché non c'erano i patti prematrimoniali, perché magari non hanno scelto nella massima libertà di non lavorare e di restare a casa, perché magari è stata una richiesta del marito. Quindi più giusto sarebbe stato che i matrimoni dopo il maggio 2017 fossero trattati al divorzio in questo modo, e quelli precedenti fossero trattati coi criteri che esistevano nel momento, i criteri giurisprudenziali che esistevano nel momento in cui le persone si sono sposate. È vero che ci sono altri parametri che noi avvocati dovremo valorizzare per ottenere un assegno più alto, tipo guardando quindi ogni vita specifica, quindi la durata del matrimonio, il contributo dato da ciascuno dei coniugi alla famiglia, e quindi tutto il lavoro inimmaginabile di una madre. Però certo, se si perde di vista il tenore di vita, si è perso di vista tutto. Anna Maria Bernardini De Pace, però appunto d'ora in poi c'è comunque la possibilità di trattare i casi appunto caso per caso, senza per forza rifarsi a questa sentenza Grilli? Lo facciamo noi avvocati. I giudici non avranno tanta voglia, perché per i giudici è molto più comodo applicare un principio così categorico. Noi avvocati dovremo combattere, perché sennò è un'ingiustizia vera, poi nel futuro si vedrà. E comunque le donne che oggi si sposano, se proprio vogliono sposarsi, che non si capisce per che senso abbia a questo punto il matrimonio nella vita, per tanti motivi, perché non si dà più importanza al tradimento e non si dà più importanza a quello che hai fatto, perché ti sei sacrificata sull'altare della famiglia, eccetera, non si vede perché uno debba sposarsi. Una volta, quando ci si sposava, si stava tranquilli tutta la vita. Adesso non è più così. Le donne oggi devono pretendere di lavorare, devono far alzare i mariti, devono fargli pulire la casa esattamente come la puliscono loro, non si devono sacrificare sull'altare famiglia. Parità di diritti e doveri, insomma. Non c'è solo una pari dignità giuridica, che ci sia una parità anche in questo senso. Oppure che si facciano i patti prematrimoniali, che potrebbe essere un'idea. Grazie, avvocata Anna Maria Bernardini De Pace. Ricordo, tra l'altro, l'ultimo dei suoi tantissimi saggi, Legami e slegami, che può essere anche Legami e slegami. Grazie e buona serata. Buona serata a voi, brava. Grazie. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Anzi, ve le ricordo in pochi secondi: mafia, il boss Totò Riina in fin di vita, il governo autorizza la visita dei figli e poi il Papa che apre alla fine vita, dice che è lecito, moralmente lecito, sospendere le cure se non proporzionali. Ne abbiamo parlato un po' dell'interpretazione di queste parole. Poi la disputa Berlusconi-Ilario, di cui abbiamo appena trattato con l'avvocata Anna Maria Bernardini De Pace. Il centrosinistra e le alleanze, questa difficoltà di ricucire per quanto riguarda Fassino, incaricato da Renzi di cercare di sondare per questa alleanza in vista delle politiche. Poi parliamo adesso invece di arte. Di arte, con un'asta da record, alla famosissima casa d'aste Christie's è stato venduto un quadro attribuito a Leonardo, il Salvador Mundi, alla cifra di 450 milioni di dollari, una cifra astronomica che ha letteralmente polverizzato il record delle più costose opere d'arte vendute all'asta. Prima di ieri, perché è successo ieri, il primato assoluto era, per un capolavoro passato di mano sotto il martello del battitore, spettava Le donne di Algeri di Picasso, venduto nel 2015 per 179 milioni di dollari. Su questo vorrei interpellare un grande critico e storico d'arte, che è Flavio Caroli. Buonasera, Caroli. Buonasera, buonasera. Grazie di essere qui. Ultimo libro, Storia di artisti e di bastardi. Caroli, questo, sì, a proposito di bastardi, questo quadro effettivamente appartiene a Leonardo oppure a qualcun altro figlio di NN? Cioè, perché si dice attribuito a Leonardo. Appunto, ma hai capito? Cioè, lei mi dice che hanno speso 450 milioni, cioè una cosa enorme, hanno triplicato il record, eccetera, per un quadro attribuito. Almeno, guardi, levi quella parolina lì e possiamo anche ragionare, ma sai, con quella parolina lì è abbastanza incredibile il tutto. La verità è questa, sì, che in effetti Leonardo, che vuole il nome di Leonardo, è senza prezzo, ma intanto questa cifra è stata spesa per un quadro attribuito, le opinioni sono infatti discordanti, e allora se spendiamo 450 milioni per Leonardo, per la Dama con l'Ermellino di Leonardo o l'Emergere delle Rocce, quanto spendiamo? Già. 1500 milioni, cioè uno Stato praticamente, è uno Stato. Allora, idealmente tutto va bene, insomma, idealmente Leonardo costa molto, ma questo non è un capolavoro di Leonardo, è già questo, incrina un po' le cose. In secondo luogo, certo, c'è il mercato decide e il mercato è giusto, insomma, è anche giusto che il mercato decida ed è giusto che ci sia. Però nella fattispecie il sospetto che la speculazione sia stata fortissima al riguardo, pensi al fatto che la sia venduta, alla pubblicità che è stata fatta, al fatto che la sia venduta in un circuito di arte contemporanea, e noi sappiamo che ormai l'arte antica costa pochissimo, invece la grande pista dei grandi numeri è quella dell'arte contemporanea. Insomma, legittimamente, naturalmente, ma certo c'è dietro una gigantesca speculazione, ecco, su questo direi che non c'è dubbio. Quindi, Caroli, effettivamente a chi rimane sconcertato di fronte a queste cifre, lei dice sì, hanno certamente un grande valore, Leonardo non ha prezzo, però c'è della speculazione, si gonfia un po' il valore, perché davvero sì, appunto, assolutamente, ma io credo che il mercato sia giusto, che il mercato scremi, insomma, le cose e trovi delle proprie bilance, ma naturalmente sul lungo termine, qui siamo sul brevissimo termine, e l'impressione che sì, la speculazione sia, no, ma guardi che è gigantesca la spesa, ed è gigantesco il fatto che sia addirittura triplicato l'ultimo record, che era poi peraltro di un quadro bello e importante, ma insomma, il mondo è pazzo, noi siamo in un pazzo mondo, ma qui insomma delle motivazioni, come dire, delle operazioni esistono sicuramente, sarebbe anche abbastanza facile identificarle. Ecco. È interessante sentirlo dire da un grande critico d'arte come lei, Caroli. Storico dell'arte, guarda, storico io preferirei dell'arte. Preferirei sì. Storico dell'arte, proprio nel senso che la critica d'arte è molto legata alla giura, insomma. La storia dell'arte dovrebbe almeno vedere le cose con una distanza un po' più lunga. Ben ecco, altra competenza, dice lei, caro. Beh, insomma, adesso non voglio dire questo, ma insomma, almeno una distanza un po' più lunga. E sulla distanza un po' più lunga, sì, e qui c'è qualcosa che di gigantesco, insomma, c'è qualcosa di gigantesco. Io ho parlato anche, io non mi pronuncio, perché il quadro non l'ho visto e queste sono cose estremamente delicate, ma io ho parlato con protagonisti dell'una e dell'altra fazione, i quali, come sempre accade, parlano tutti di un tema, che è il tema delle leggi ottiche, perché in questo quadro ci sarebbero dei riferimenti agli studi ottici di Leonardo, ma gli uni e gli altri tirano la coperta dalla loro parte, per cui chiaro. L'argomento poi non risulta risolutivo. Vedremo quale sarà il prossimo record, per il momento fermiamoci qua, che è già molto. Grazie mille Flavio Caroli. Sì, che il mercato, credo che il mercato si fermerà. Già, speriamo. Grazie Caroli, grazie, buona serata. Noi anche ci fermiamo, però poi sapete che ritorno brevemente alle 22.